Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Diciannove, 15 minuti, 48 secondi. Buona serata, gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi arrivano anche dalla redazione, Benedetta Acri e Laura Faggin, che hanno confezionato con me anche questa puntata, e questa sera Filippo Aureggi darà musica e ritmo. Seguiteci e fate domande oppure commentate via mail nessunluogo@radio24.it, gli sms se siete sintetici al 349-238-6666. Cercateci su Facebook, la pagina è qua sotto i miei occhi, Nessun luogo lontano trattino Radio 24, e infine potete twittare a Nessun luogo 24. Allora, la settimana scorsa abbiamo iniziato questo viaggio in Nord Kivu dopo due settimane passate su e giù per quella regione. Questa sera voglio concludere il discorso, voglio darvi conto di questo mio viaggio, e quindi vi porto nuovamente in Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo. Qual è la situazione in Nord Kivu? Nelle prossime settimane la brigata di intervento MONUSCO dei Caschi Blu, la prima con caratteristiche offensive nella storia dei Caschi Blu, sarà dislocata appunto nel nord della regione. La base sarà Goma, la capitale. L'obiettivo è colpire i gruppi armati, in particolare quel gruppo ribelle chiamato M23, dagli accordi del 23 marzo che misero fine a un'altra ribellione, quella del padre dell'M23, che era il SENDEPE, il Consiglio Nazionale per la Difesa del Popolo. I 1500 miliziani di M23 continuano a essere una seria minaccia per Goma. Vi raccontavo la settimana scorsa che vi sono stati recenti spostamenti di truppe, almeno 300 miliziani sono a pochi chilometri, la linea del fronte è a 2 chilometri da Goma, ma un grosso contingente è stato spostato sulla collina di Kibumba e sarebbero dotati anche di missili SAM-7. Ora, in questo quadro, l'intervento della brigata dei Caschi Blu della MONUSCO dovrebbe, nelle intenzioni, andare a risolvere e a eliminare questa minaccia. Io ho cercato in queste due settimane di indagare sulla tempistica, contattando in loco anche svariate persone della MONUSCO, sia militari che civili, e porte chiuse ogni volta, molto riservo sulla tempistica. Ed è anche comprensibile, perché l'ONU non vuole dare un riferimento temporale al nemico, e questo è evidente. Intanto però non è che gli attori sullo scacchiere stanno fermi, e mentre a Kampala i colloqui di pace tra il governo congolese e i ribelli di M23 stanno zoppicando perché i ribelli si sono ritirati, intanto l'esercito governativo congolese e un altro gruppo ribelle, gli FDLR, i fuoriusciti ruandesi, starebbero avanzando su due diversi fronti. E allora non si è fatta attendere la tonante replica di Bertrand Missimua, che è portavoce di M23, ha detto che si risiederà al tavolo solo con un vero cessate il fuoco. Ma torniamo a quelle che sono state le mie due settimane in Nord Kivu. Mi sono spostato a Minova, che è una cittadina sulle rive del lago, siamo a una cinquantina circa di chilometri da Goma. Lì ho incontrato il colonnello Teofil Kirasi Mange delle FARDC, dei governativi. Lui è direttore delle operazioni civili militari, fondamentalmente tiene il collegamento tra quello che è l'ambito civile, la società civile, i cittadini e le operazioni militari. A lui ho chiesto che cosa si aspetta dall'intervento dei Caschi Blu e se non tema un'escalation di violenza. Bon, moi je n'ai pas peur qu'il peut y avoir de violence. Sinon la brigade qui vient, la brigade d'intervention. Io non ho paura che ci possano essere episodi di violenza. Lei sa, la brigata che arriverà, la brigata di intervento, è composta da più eserciti, esercitiprofessionali. Quando si fa la pianificazione di manovra, Bisogna ragionare sui danni collaterali che si possono creare durante le operazioni. Quindi penso che si cercherà di sapere quello che viene chiamato l'obiettivo nemico e quello che non è obiettivo nemico. E là si andrà a cercare di risparmiare i civili innocenti, di non farli cadere sotto i proiettili. Quello che penso è che i danni collaterali ci saranno, ma significa anche che dobbiamo cercare di capire come possiamo limitarli. Non ho paura, perché la brigata viene per annientare il nemico, annientare l'esistenza di questi gruppi armati. E questa può essere una soluzione duratura al posto di negoziare sempre, tutti i giorni, con dei malfattori. Vous êtes confiant dans les nations qui ont choisi. Colonnello, ha fiducia nelle nazioni che hanno scelto di dare sostegno a questa brigata? Mi riferisco quantomeno a sudafricani e tanzaniani. Je suis confiant à toutes les nations qui ont accepté d'abord. Io ripongo fiducia in tutte le nazioni che hanno accettato subito di sacrificare e donare i loro figli per salvare la vita dei congolesi. Ma le richieste che potrebbero essere fatte alle diverse nazioni riguardo alla partecipazione alla brigata, beh, quello non è il mio campo, è competenza della politica. Ce n'est pas mon niveau, c'est le niveau della politica. Il rischio, lo dicevo anche sabato scorso, è appunto l'escalation di violenza. Il territorio del Nord Kivu è un territorio molto aspro, sa essere veramente inospitale. C'è la foresta, c'è il parco del Virunga. Per i miliziani nascondersi, occultarsi, diventare camaleonti è davvero facile. In mezzo ci sono i villaggi, ci sono i civili, e quindi il timore di tanti analisti è proprio questo. Ribadisco quelle che sono le due alternative che lo Stato Maggiore di M23 starebbe valutando allora a questo punto. Da un lato, una prima ipotesi sarebbe quella di prendere Goma di nuovo, come è già stato fatto a novembre dello scorso anno, prima dell'intervento dei caschi blu, per seminare il panico e per come dire, anticipare qualsiasi mossa da parte dell'ONU. La seconda alternativa, forse più pericolosa dal punto di vista di coloro che andranno a intervenire, i caschi blu, è nascondere le armi, gettare via quelle mimetiche nuove di zecca e quegli anfibi neri americani che molto ragionevolmente arrivavano da Ruanda, che ho visto 2 settimane fa. Ebbene, buttare via quelle, nascondere le armi e aspettare tempi migliori per una nuova ribellione. Perché, lo devo ricordare, il Nord Kivu è in qualche modo la regione dei ribelli. Ci sono circa 40 gruppi armati diversi e le ribellioni sono ormai una costante drammatica in questa regione del Congo. E allora il colonnello Teofil Kirasi Mange, lui che ha vissuto gli ultimi anni tutte queste ribellioni, insomma è un osservatore privilegiato. Allora a lui ho chiesto se non vede in qualche modo un ripetersi degli eventi, questa storia che stancamente continua a ripetersi in questa regione dell'est. Ascoltiamo insieme che cosa mi ha detto. Voi sapete che secondo la Bibbia non c'è nulla di nuovo in questo mondo. Si va verso una situazione che abbiamo già visto nel 1980, nel 1960, ma che va ancora a ripetersi oggi, nel 2013. Per esempio, io penso che se parliamo della secessione del Katanga, se parliamo delle varie ribellioni, tutti sanno che se discutiamo, per esempio, della guerra degli 80 giorni nel 1977 e così di seguito, è facile accorgersi che è una storia che si ripete ancora oggi. Ma l'analisi che faccio io è la seguente. I 32 anni di governo di Mobutu non sono stati altro che 32 anni di distrazione, di svago. E come un malato che soffre e come medicina, al posto di cercare di combattere la malattia, gli viene somministrato un anestetico. Poi il malato potrà credere di essere guarito, ma passato l'effetto dell'anestesia sull'organismo, il dolore si ripresenta. Per questo motivo, per capire ciò che stiamo passando oggi, bisogna andare nella profondità della politica. Chi oggi è in lotta contro i congolesi sono i figli di coloro che erano al fianco di Mobutu, benché Mobutu fosse consapevole che erano stranieri, ma adesso ci sono i loro figli. Voglio dire che durante quei 32 anni di distrazione, i loro figli hanno studiato i congolesi che intanto passavano il tempo danzando. Invece che impegnarsi, rinascere, invece che alzare la testa con un ideale trasmesso dal nostro gran leader Mobutu, noi siamo stati distratti da tutto ciò. Ed è per questo che poi Mobutu dirà, dopo di me il diluvio, lui ha mal preparato il paese. E c'est pourquoi il dira, après moi c'est le déluge, puisqu'il a mal préparé le pays. Vous avez parlé des microbes. Lei ha parlato di malattia, di microbi. Ecco, oggi chi sono i microbi che minacciano il vostro paese? Le microbi vous-même vous connaissez? I microbi sono quelli che voi stessi conoscete già, le guerre a ripetizione. C'è solo una categoria di persone che utilizza questi diversivi. Non fa dei nomi, quindi? Non posso citare qualcuno, ma voi sapete chi sta combattendo i congolesi oggi. E questo è il durissimo j'accuse di questo colonnello, Théophile Kirasimang, che ho incontrato a Minova, è un colonnello delle FARDC, le forze governative congolesi. Non fa i nomi, non le vuole fare, ma evidentemente si riferisce ai paesi vicini, in particolare a quel Ruanda che un recente rapporto delle Nazioni Unite accusa di sostenere e fomentare le ribellioni nell'est. Assieme a Ruanda vi sarebbe anche l'Uganda, addestramento di uomini, invio di armi, invio anche di miliziani. Tutto questo non fa che complicare un già complesso scacchiere, che è quello del Nord Kivu. Lo dicevo sabato scorso, l'interesse da parte dei paesi vicini nella destabilizzazione di questa ricchissima regione sta proprio, secondo molti, nella ricchezza del sottosuolo, dei minerali, di quel coltan che poi finisce nei cellulari che utilizziamo noi tutti ogni giorno. Allora do il mio buonasera e bentornato a Nessun Luogo Lontano, Donatella Rostagno, analista e segretario esecutivo di EURAC. Donatella, buonasera. Buonasera, buonasera a te e a tutti. Allora, EURAC è una rete di ONG europee, sede Bruxelles, che si occupa di analisi dei paesi dell'Africa centrale. Due settimane tra Burundi, Sud Kivu e Nord Kivu, Donatella, per uno studio, per un'analisi sulla riforma dell'esercito regolare congolese, sulle FARDC. Prima di fare una piccola pausa, ti chiederei intanto perché è importante riformare l'esercito congolese. Ma è importante per riformare l'esercito perché l'esercito in questo momento e l'esercito negli ultimi 20 anni è stato parte del problema e non la soluzione per quel che riguarda tutto quello che succede nell'est del Congo e nel Kivu. Quindi ovviamente riformare l'esercito vuol dire formarlo innanzitutto, formare un esercito, perché l'esercito in questo momento, l'esercito congolese, non esiste in quanto entità unica, in quanto appunto un gruppo di soldati che lavorano insieme. E purtroppo la storia ci ha insegnato negli ultimi 20 anni che l'esercito congolese è stato più un problema per la popolazione che la soluzione, come dicevo. L'esercito congolese ha attaccato la popolazione, tra l'altro è successo anche recentemente. L'esercito congolese spesso ruba nei villaggi, spesso per nutrirsi deve prendere il cibo che c'è nei villaggi, attacca la popolazione, uccide, e quindi ovviamente non è un esercito che si può considerare tale. Ecco, l'oggetto del tuo viaggio, della tua analisi è stata proprio questa, come riformare un esercito che è un'unione di vari gruppi armati che dopo le ribellioni vengono inesorabilmente ogni volta integrate appunto nell'esercito, un esercito che non ha logistica, che non ha quasi mai mezzi, veicoli a motore per spostarsi, quindi deve marciare per decine e decine di chilometri a piedi, che guadagna pochissimo, poi scenderemo nel dettaglio, la cui razione è spesso un mestolo di mais per tutto il mese. Un esercito che spesso si sposta con i figli, con le famiglie a seguito, quindi siamo così lontani dagli standard occidentali a cui siamo abituati che veramente, insomma, si drizzano i peli sulle braccia. Nessun luogo è lontano. Anche questa sera, gentili ascoltatori, vi porto in Nord Kivu. Siamo lì dove vi sono almeno 40 gruppi armati diversi che combattono, a dir loro, per la democrazia e il Congo libero. In realtà si spartiscono il territorio, un territorio spesso ricchissimo. In quello stesso territorio le FARDC, l'esercito governativo regolare, a volte invece di combattere i gruppi armati diventa esso stesso una minaccia per la popolazione. Siamo con Donatella Rostagno, analista e segretario esecutivo di Euraca, che si occupa proprio di questa tematica ed è anche lei di ritorno da una missione in Burundi, poi Sud Kivu e poi Nord Kivu. Ma vi dicevo, prima di entrare nello specifico dell'analisi, voglio tratteggiare una famiglia un po' particolare. E allora vi invito a entrare con me in una capanna di mattoni e paglia a Bueremana, vicino a Minova, sulle sponde del lago Kivu. Vi invito a entrare con me a conoscere un gruppo di soldati governativi di Fardesè che da mesi sono fermi qui sul lungo lago, dopo che a novembre dell'anno scorso l'ottava regione militare guidata dal generale Bauma ha dato l'ordine di ritirarsi dalla capitale del Nord Kivu, da Goma, lasciando così appunto la città nelle mani dei ribelli M23. E fra l'altro siamo molto vicini a Minova, dove Donatella Rostagno citava attacchi alla popolazione. A fine novembre almeno 120 donne sarebbero state violentate da soldati Fardesè, da governativi. Gli accusati, alcune decine, sarebbero a Kinshasa per il processo. E adesso entriamo in questa capanna. Siamo stati formati dalla MONUSCO, in particolare dagli indiani. È il 23° battaglione che è stato addestrato e integrato. Siamo stati ben preparati. Avevamo fatto tutto ciò che si doveva. Poi, quando siamo arrivati nel Nord Kivu, siamo stati sparpagliati. Chi qua, chi a Bunia, altri a Kindu. Finisce sempre così. Alla fine siamo dispersi. E poi dicono che il battaglione lavorerà con MONUSCO e diventerà il battaglione MONUSCO congolese. Ma fino ad adesso noi siamo tutti sparpagliati, in pratica senza lavoro. E questo mi dà parecchia preoccupazione. Che genere di lavoro? Che tipo di lavori fate? Noi come soldati, e spesso le mogli dei militari, siamo costretti per campare a lavorare per i civili. Coltiviamo i campi per i civili, li aiutiamo anche a costruire. E poi loro ci pagano $0.50 al giorno. Recintiamo i campi o coltiviamo i campi di manioca per i civili. Li aiutiamo anche nella costruzione delle case e loro ci pagano $0.50 al giorno. Siete tutti militari qui? Sì, qui siamo tutti militari e mogli di militari. La voce che avete sentito è quella di Jérôme Ambisi Ndonge, 45 anni, tenente di Fardesè, originario del Katanga e catapultato a centinaia e centinaia di chilometri dalla sua regione di nascita. Sentite ancora il suo racconto. Abbiamo molto sofferto. Con quel salario non si sopravvive. Quando uno riceve 70.000 franchi al mese, che cosa può farci con quello? E poi la paga arriva 2 o 3 mesi dopo. Che cosa si deve fare? Se andiamo all'ospedale non ci sono neanche i medicinali e noi dobbiamo andare in farmacia a comprarceli, noi, dalle nostre tasche. I medicinali arrivano ma vengono venduti. I medicinali dell'FARDC non arrivano ai soldati e se arrivano li vendono. Quando sei malato, se ti danno qualche pastiglia di medicinale, il giorno in cui ti danno il salario, al posto di darti 70.000 ti tagliano 20.000 e tu rimani con 50.000. Che sofferenza. La voce femminile che avete sentito è quella di Jeannette Vitima Masika, 31 anni, originaria del nord, è un caporale, una ragazza minuta, tutta nervi e sorrisi, ed è la moglie di Jérôme. I due sono sposati da 9 anni, hanno quasi sempre lavorato e combattuto insieme. I figli, ne hanno 3, sono tutti a Lubumbashi, in Katanga. Sono dalla famiglia di lui, anche se i due coniugi non hanno più notizie ormai da 8 anni dei figli. Non sanno nulla, non sanno se sono vivi, se sono morti, cosa stanno facendo, non sanno nulla. E sempre per la cronaca, quando Jeannette Masika parla di 70.000 franchi, stiamo parlando di $70 al mese. Tenete conto che per mangiare qualcosa si spende un dollaro e mezzo, $2. Una Coca-Cola costa $1.50. Una notte in un albergo, lo chiamo albergo ma per dire, insomma, tra virgolette, costa $3, $4, $5. E quindi i conti sono fatti ben presto. Se hai una famiglia, arrivata al terzo o quarto giorno del mese, non hai più di che mangiare. Donatella Rostagno, questo l'impietoso ritratto di famiglia che ho raccolto a Borimana è soltanto un problema di paga, quello delle far de sé? Cioè, se iniziassero a ricevere degli stipendi degni di questo nome, secondo te inizierebbe a cambiare qualcosa? No, io non credo che sia solo quello il problema. È ovvio che per quanto riguarda la vita dei militari quello è un problema, perché come tu hai ben spiegato e come si capisce anche dall'intervista che hai fatto alla famiglia, insomma, questa coppia di militari è molto difficile vivere con questa somma di $70 al mese, che poi spesso non arriva in ritardo, insomma, questi sono anche altri problemi. Io, secondo me, uno dei grossi problemi, però, che si capiva all'inizio dell'intervista del militare di Jerome, è che nonostante alcuni battaglioni, per esempio, siano stati formati, poi in realtà a questa formazione non segue di conseguenza poi un impiego dei militari in maniera coerente, per cui se si forma un battaglione e poi lo si sparpaglia, i membri, i soldati si sparpagliano nel territorio, è ovvio che la formazione è servita a poco. Sì. Cioè, tu dici diversi problemi. Quel patrimonio che viene dalla formazione, dall'addestramento di mesi che viene fatto ad esempio dagli indiani o dai cinesi in Congo, poi viene letteralmente disperso, perché quando tu spezzetti un battaglione, quello che era il patrimonio di una formazione comune, appunto, se ne va a ramengo, perdonatemi il termine. Quali sono, Donatella, i punti cruciali della riforma, oltre a questo che hai già appunto molto ben puntualizzato, e al problema della paga, secondo te? Ma sicuramente la volontà politica, quindi la volontà di Kinshasa, stiamo parlando della volontà del governo congolese di avere un esercito efficace ed un esercito che funziona sul terreno, insomma sul campo e nel territorio. Perché un esercito che funziona sicuramente aiuterebbe a risolvere il problema dell'instabilità all'est del Congo, e l'impressione è che la volontà del governo congolese e suo stesso non sia quella di risolvere il problema dell'instabilità, ma al contrario, quello di mantenerla. Perché Donatella, c'è questa volontà, insomma, più o meno esplicita di tenere il Kivu in questo costante stato di tensione e di fragilità? Ma uno dei motivi, l'hai citato anche tu, è sicuramente che questo Kivu è un territorio ricchissimo, probabilmente uno dei più ricchi al mondo, si dice, pieno di risorse naturali, ecco, del sottosuolo. E che fondamentalmente poi alla fine lo sfruttamento illegale di queste risorse avviene da parte di diversi attori, sia internazionali sia della zona, quindi della regione, si citavano alcuni altri paesi come il Ruanda e l'Uganda, ma fondamentalmente probabilmente anche da parte di membri governativi del governo. E quindi è più facile mantenere una situazione di instabilità della quale poi tutti approfittano, che è invece risolvere il problema. Ecco, chi ha fronteggiato sul terreno questa instabilità continua è proprio il caporale Masika. Vi faccio sentire ancora la sua voce. Il racconto incredibile di Masika è questo. Lei dice: nel 2008 devo partire per il fronte perché c'è la ribellione del Sendepe di Lorankunda da contrastare e sono obbligata a partire. E lei parte con il fucile su una spalla, la cassetta di munizioni sull'altra spalla e il figlio di 8 mesi avvolto in una fascia e messo sul davanti, sul seno, per proteggerlo, perché dice Masika, se ci fosse stata un'imboscata e avessero sparato da dietro, almeno avrei potuto proteggerlo. Non sapeva chi lasciare il piccolo aveva 8 mesi, se l'è portato al fronte e il piccolo ha partecipato a degli ingaggi, a delle sparatorie. E la chiacchierata con Masika si chiude. Io le chiedo: avevi paura per te stessa, avevi paura per il bambino? Lei dice orgogliosa: io sono un soldato far de sé, non ho paura, l'unico timore era la vita del bambino. Le bebè aveva 8 mesi. Donatella Rostagno, che alternativa c'è secondo te a questo continuo meccanismo di integrazione dei gruppi armati? Esiste un altro modo per, come dire, spezzare questo circolo vizioso incredibile per cui c'è una ribellione, 1000 uomini armati mettono a ferro e fuoco una regione, poi si firma un accordo di pace, i ribelli vengono integrati e fanno parte dell'esercito congolese, salvo poi un anno dopo di nuovo disertare e ridiventare ribelli? Ma l'alternativa, innanzitutto io vorrei dire che questo sistema potrebbe funzionare se ci fosse effettivamente una volontà politica di farlo funzionare, perché integrare un gruppo ribelle nell'esercito non è un esercizio facile che si fa in 24 ore. Bisognerebbe accompagnarlo da programmi di disarmo, programmi di reinserzione civile o militare, programmi di formazione sui diritti umani, per esempio, programmi sull'informare e far capire a queste persone cosa voglia dire passare da uno status di ribelle a uno status di soldato dell'esercito del nazionale, insomma, del governo. Quindi io credo che questo sia molto importante. Purtroppo questa volontà di risolvere le cose in questo modo non la vediamo, e spesso il governo congolese prende come unica soluzione la soluzione militare. Non è solo il governo congolese, perché come hai detto anche tu e come hai citato all'inizio, anche la comunità internazionale e le Nazioni Unite hanno deciso adesso sono presenti e cercano di combattere questa instabilità con le armi, ma purtroppo la soluzione militare non sembra mai quella giusta. La soluzione reale dovrebbe essere una soluzione politica, di negoziato e di formazione, quindi di un reale reintegro di queste persone nella vita militare o civile, se lo preferiscono. Grazie mille Donatella Rostagno per essere stata con noi. Buona serata, buon lavoro per un'analisi che è veramente molto molto complessa. Grazie a voi e grazie a te. Allora, ho il tempo di rispondere a un SMS che chiede: non riescono questi due militari a mettersi in contatto con i figli? No, non riescono perché non sanno più il numero di cellulare dei genitori di Jerome. In più devo aggiungere che in molte zone del Nord Kivu, di altri stati del Congo, di altre regioni del Congo, avere una rete cellulare degna di questo nome è veramente una chimera. Nessun luogo è lontano. Fra gli episodi più drammatici commessi da far de sé, voglio ricordarvi un'incredibile battaglia, quella di Kichanga, che è circa 2 ore nord-ovest di Goma, una battaglia che è iniziata il 27 febbraio. Se andate sul sito radio24.it/nessunluogo troverete la drammatica testimonianza di padre Faustino, che ha vissuto in prima persona quella battaglia. Cosa è successo? I soldati governativi hanno bombardato il villaggio. Perché? Perché erano a caccia di un gruppo armato, i Mai Mai PSLS, che erano dentro il villaggio, che controllavano il villaggio. Quel gruppo armato non era lì per caso, era in attesa di integrazione, di quella famosa, viziosa integrazione che è continuamente perseguita dal governo congolese. Poi cos'è accaduto? Beh, come spesso accade in campo militare, non puoi tenere 2 gruppi armati diversi, 2 comandanti militari diversi sullo stesso territorio, ed è finita nel sangue, con un bilancio che parla di 134 civili uccisi, 45 soldati governativi e 14 Mai Mai caduti. Bilancio provvisorio, perché poi strascichi della battaglia si sono avuti nei giorni seguenti. La brigata far de sé governativa responsabile è stata trasferita in Kasai, lontanissimo. Per ora nessun provvedimento è stato preso contro gli ufficiali che hanno ordinato quell'attacco. E adesso però voltiamo pagina. Voltiamo pagina perché 2 anni e 2 giorni fa si chiudeva la più lunga e difficile caccia all'uomo della storia moderna. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Il 2 maggio del 2011, dopo 10 anni di latitanza come il più ricercato terrorista al mondo, in un blitz dei Navy SEAL veniva ucciso ad Abbottabad in Pakistan Osama bin Laden, il nemico numero uno degli Stati Uniti. Le note che ci accompagnano in questo racconto sono parte della colonna sonora del film Zero Dark Thirty, diretto da Catherine Bigelow, ma un recentissimo documentario dal titolo Manhunt, Caccia all'uomo, prodotta da HBO negli Stati Uniti, racconta i 10 anni prima dell'11 settembre e svela come quella caccia a Bin Laden sia iniziata molto, molto prima. Osama bin Laden had declared war on the United States, and no one paid any attention. There were just warning after warning. We knew something huge was going to happen. I think women make fantastic analysts. We have patience, perseverance. People who had really deep expertise in Al-Qaeda, they were women. We were trying to keep track of all. E allora questo documentario, che svela un po' quello che è il retroscena, il backstage di questa lunga caccia all'uomo, è stato diretto da Greg Barker, un regista americano. Lo abbiamo raggiunto. A lui ho chiesto qual è il lato nascosto, la risposta che mancava, che il film svela. I think the big thing that I learned making the movie is that the hunt for Bin Laden. La cosa importante che ho imparato facendo questo film è che la caccia a Bin Laden, che noi crediamo sia iniziata dopo il settembre 2011, è iniziata molto tempo prima, grazie a un piccolo gruppo di investigatori formato prevalentemente da donne all'interno della CIA. Sono state loro ad identificare Osama Bin Laden come una minaccia destinata a crescere, già nel 1993. E da allora hanno continuato a studiarlo, scoprendo che comandava un gruppo segreto chiamato Al-Qaeda e avvertendo che Al-Qaeda avrebbe attaccato l'Occidente molto prima di quanto in effetti accadde. I loro allarmi sono stati ignorati ed è questo stesso gruppo che alla fine si è messo sulle tracce di Abbottabad. La vera storia non è tanto quella dei Navy SEALs che hanno portato a termine il blitz di Abbottabad, che certamente è interessante. La vera storia è la lunga strada, fatta di sconfitte, di abbattimenti morali e di decisioni difficili per perseguire e demolire Al-Qaeda. E sempre a Greg Barker ho chiesto se vi fosse qualcuno che si è distinto in questa caccia che lui racconta e se questo personaggio appunto emerga nel film. Nel corso di tutti questi 20 anni c'è stato un gruppo di persone formato da donne che era focalizzato su questa caccia. E in momenti diversi ci sono state delle individualità che hanno avuto un ruolo predominante e che hanno fatto un lavoro straordinario. Quindi penso che sia difficile dire che è stata una sola persona che lo ha braccato. Non è questo il caso. Penso che sia stato uno sforzo collettivo da parte di molte persone che... L'idea che io voglio divulgare è che erroneamente pensiamo alla CIA come un insieme di spie e di persone distanti che lavorano molto con la tecnologia e con i gadget all'avanguardia. Ma queste sono persone ordinarie che fanno un lavoro straordinario e ci sono molte più persone come noi di quante ne immaginiamo. Quello che ho cercato di fare nel film è di umanizzare queste persone e di mostrarle per come sono realmente. Ho parlato della lotta al terrorismo con le loro voci per la prima volta. Allora, questo era Greg Barker, il regista. Ho chiesto che caratteristiche devono avere gli agenti del team che ha dato la caccia a Bin Laden. You know, I think it's a lot of detective work. I think they have to have an open mind. Beh, è un lavoro da detective. Devono avere una mente aperta, devono avere la volontà di lavorare un sacco di ore senza trovare una soluzione immediata. È interessante vedere come la maggior parte delle qualità che servono per un'analisi antiterrorismo come questa sono proprie delle donne. Spesso gli uomini non hanno questo approccio. Molti uomini nella CIA cercano impieghi che portano a risultati veloci e li aiutano nelle promozioni di carriera. Se tu stai dando la caccia a Bin Laden, devi lavorare tutti i giorni senza alcun risultato per anni. Alcuni uomini hanno partecipato, ma il cuore del gruppo era un gruppo di donne disposte a lavorare per anni senza avere un successo immediato. You were going to work every day and not succeeding for years. Questo è un po' il lato nascosto, se volete, di questa lunga caccia a Bin Laden che il film di Barker, Manhunt, cerca di svelare. Siamo quasi in chiusura, vi propongo una chiacchierata con Raffaello Pantucci, ricercatore al Royal United Service Institute di Londra, specializzato in antiterrorismo. A lui ho chiesto, a 2 anni dalla morte di Bin Laden, lo stato dell'arte di Al-Qaeda. Beh, a questo punto Al-Qaeda è un ente cambiata, nel senso che avendo perduto il suo capo centrale, ha perduto un po' il suo punto di riferimento centrale. Adesso vediamo che l'Al-Qaeda è un'organizzazione molto più sparsa nel mondo, abbiamo tante piccole organizzazioni che hanno che parlano come Al-Qaeda, sembrano Al-Qaeda, però i loro interessi sono molto più locali. Ecco, chi ha preso il posto di Bin Laden, se qualcuno lo ha preso? Nell'organizzazione centrale di Al-Qaeda la persona che ha preso il ruolo è il Ayman al-Zawahiri, il numero 2 nell'organizzazione. Però la storia di Bin Laden era una tale che lui era una persona che nella sua esperienza, con i suoi soldi, con la sua storia personale, aveva creato la sua immagine. Ayman al-Zawahiri ha una storia totalmente diversa. E lui in certi sensi non ha potuto totalmente rimpiazzare Bin Laden, però nella pratica organizzazionalmente è Ayman al-Zawahiri è adesso il nuovo capo di Al-Qaeda. Ecco, è più pericolosa adesso senza Bin Laden o lo era 2 anni fa con ancora il grande leader al comando? Ma devo dire che è un'organizzazione che rimane pericolosa, però la provenienza del pericolo è cambiata. Ai tempi di Bin Laden, quando c'era Bin Laden in comando, era un'organizzazione che era molto più diretta al centro, che il centro gli diceva di fare attacchi contro il West o contro gli Stati Uniti. Adesso che è un'organizzazione molto più sparsa nel mondo, con tutti questi gruppetti che hanno i loro interessi, vuol dire che gli attacchi possono venire da una varietà di posti e una varietà di organizzazioni. Allora in un certo senso ha complicato un po' la situazione e l'ha resa un po' più pericolosa. Però dall'altro lato dobbiamo anche tenere in mente che siamo adesso almeno 6 o 7 anni dall'ultimo attacco di successo che è proveniente da Al-Qaeda. L'ultimissima domanda, sì. Al-Qaeda nel Maghreb islamico e gli altri gruppi islamisti che hanno tenuto fino a qualche mese fa il nord del Mali hanno avuto molti anni, molti mesi per prepararsi, per addestrarsi, per fare campi militari, hanno preso le armi libiche eccetera. Secondo te è possibile che diventi Al-Qaeda nel Maghreb islamico diventi lui la testa, Al-Qaeda madre diventi in qualche modo Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ci sia uno sbilanciamento di potere sul Maghreb? L'Al-Qaeda nella Islam islamica è stato un problema da tanti anni, dopo gli eventi in Amenas e dopo quello che è successo in Nord Mali è diventato un tratto, è diventato un punto molto più interessante dal punto di vista di sicurezza, però è difficile immaginare che questo gruppo in particolare potrebbe prendere il controllo. È un gruppo che è sempre stato molto più focalizzato sui problemi in Nord Africa, problemi magrebini che cose internazionali. Se guardiamo nella storia, come un gruppo internazionale, loro hanno fatto ben poco. Invece se guardiamo un gruppo come l'Al-Qaeda nel Arabian Peninsula, nel Golfo, quella nel Yemen, lì invece hanno fatto parecchi attentati contro il West e loro sembrano più ideologicamente mirati in un modo globale. Allora fra i gruppi più pericolosi direi che probabilmente quello nel Yemen è più pericoloso di quello maghrebino nel Maghreb. È tutto per questa sera, gentili ascoltatori. Un grazie a Benedetta Acri, Laura Fagini in redazione, Filippo Aureggi in regia, a voi per essere state con me anche in questo viaggio. Vi ricordo che sabato prossimo a 19:15 di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano.